Il punto di Stefano Folli. Se il premier Renzi è davvero determinato a schiacciare i dissidenti del suo partito sotto il 41% dei voti raccolti alle europee, non c'è dubbio sul risultato, li schiaccerà. Quelli che a torto o a ragione hanno eccepito sulla riforma del Senato saranno spazzati via, ma poi resteranno i problemi che hanno determinato il malumore, perché nella legge costituzionale molti aspetti sono da correggere, il che non significa voler lasciare il Senato così com'è, ma vuol dire ad esempio definire le funzioni dei nuovi senatori e le loro competenze. Sarà inevitabile affrontare la questione dopo aver mostrato agli italiani che il braccio di ferro con il senatore Mineo, nome diventato simbolico, lo ha vinto il Presidente del Consiglio, il quale dovrà dire una parola anche su un altro personaggio che disturba assai il PD, ed è il sindaco di Venezia Orsoni, il quale ha patteggiato la pena per lo scandalo del Mose e rifiuta di dimettersi da sindaco. Vediamo se anche in questo caso Renzi dirà che non ha preso il 41% per essere fermato da Orsoni.